fiabe, ma ci emozioniamo ancora a sentirle raccontare. Ed ora che sembra finita l'estate di stelle e di sere, e la pioggia d'autunno ci porta l'odore di cose nuove e vere. E come rondini al vento se ne vanno le illusioni, e all'orizzonte spunta, spunta la realtà. Di terra da sudare e figli da abbracciare, di amori da difendere e mani per pregare, di cielo da guardare e notti per dormire, di cose semplici da riscoprire. Ed ora che abbiamo lasciato da parte un bel po' di sogni, ma ne abbiamo trovati degli altri più belli e più grandi, ed ora che abbiamo capito davvero da che parte stare, e che la coscienza è l'unica bussola per non perdersi in mare, e dietro una linea d'ombra ci lasciamo le illusioni, e all'orizzonte spunta,